ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. No, io sono uno storico revisionista e mi piace Mussolini sicuramente. Soprattutto ha dato dignità alle famiglie, perché ha fatto in modo che le persone si sposassero dividendo gli uomini dalle donne, per esempio, sì, sui campi di concentramento. I campi di concentramento esistono oppure no? Sono esistiti i campi di concentramento secondo lei? Ma che cazzo dici? Non dire cazzate. No, figurati, allora dobbiamo, gli ebrei si sono suicidati, erano così stronzi che si sono suicidati. Ma che cazzo dici, Finocchio? Stai zitto, non rompere i coglioni. Onore a Benito Mussolini e vaffanculo a te! La zanzara. Tutto il resto è gioia. Hai capito, figlio di puttana? No, non ho detto gioia. Come non potevo non fare un video per dire quanto è pituso. Bisogna avere il coraggio di parlare, il coraggio di dirgli che Pasquale Tridico è un cosa inutile. Cioè i ristoratori non possono più neanche andare avanti, io altrettanto, artigiani e tutte le attività, e questi che fanno? Si aumentano lo stipendio, perché i poverini lavorano tantissimo. Ce lo meritiamo, perché siamo un popolo di babbi. Ci meritiamo questo schifo. Noi ci meritiamo questa gente. Noi ci meritiamo di fallire tutti. Tutti. Conte Dracula fa la sua apparenza in TV. Tutto andrà bene, abbasseremo le tasse, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto... Che cazzo avete fatto? Che cazzo avete fatto? Ma che cazzo dite? Ma che cazzo dite tutte queste bugie? Ladri! Ladri! Noi siamo un popolo di babbo, un popolo di pecoroni. Questa è l'Italia. L'Italia dei falliti, l'Italia è un paese di balocchi. Funzionari, presidente, politici, dirigenti, questo è un magna magna, un ruba ruba, basta, avete rotto le palle, non pago più un cazzo. Ed è per questo che io dico sempre che la vita è il nemico. La vita è il nemico! La vita è il nemico! In macchina, infila il drive-in per fare il tampone, ascoltando Barisoni. Zanzara, quando inizi? Quando inizi? Ma mi spiegate per favore perché ogni cazzo di giorno devo sentire dire che aumenta il numero di contagi, diminuisce il numero di contagi, aumentano i casi, diminuiscono i casi, quando è evidente che diminuiscono o aumentano solo perché cambia il numero di tamponi, porca di quella puttana! Ci sarà il super bonus. Se uno spende tanto, e quindi attenzione, tanto non significa di importo, acquisti di importo rilevante, anche un singolo caffè e quindi tanti acquisti continuativi, i primi 100.000 SMS avranno 1.500 euro a testa, in più ci sono 50 milioni all'anno per una lotteria con estrazioni periodiche. In collegamento da Roma, David Parenzo, grande ritorno dopo il digiuno di ieri, grande ritorno. Buonasera cari amici, piccolo errore, in realtà sono in collegamento dalla città di Napoli. Buonasera e benvenuti, mia, non Napoli, dico a fare cosa, a una grande assemblea di assoporti, non diciamo giù, di più. Giù non il diciamo microfono, le solite marchette, eccetera, le solite marchette. No, ma in realtà è successa un'altra cosa gravissima del che giustifica il fatto che sei a Napoli. Una cosa gravissima, esatto, di cui parleremo dopo, gravissima. Dillo, no, dopo lo dico perché sono incazzato nero. No, non per colpa mia, non per colpa mia, ecco, questo vorrei che tu lo dicessi immediatamente. In collegamento da Abano Terme, Alberto Gottardo, eccoci quasi qua. Quasi a digiuno perché continua la dieta, ma ho perso un altro chilo, meno 7 da quando sono entrato in questa struttura. Allora, mamma ragazzi, mia, volete subito che vi dica cosa penso di questa vicenda incredibile dei tamponi ai giocatori del Genoa, risultati positivi, che potrebbe chiudere essere il calcio, te lo dico io subito. Sì, tu sei un cretino totale. Chiudere tutto, partite a porte chiuse, a porte chiuse, stracchiuse, chiusissime. Squadre ferme, via, si blocca il calcio, arrivederci, grazie. Tu sei un coglione, eccolo là, quello che non sa passare la domenica. Non sapete passare la domenica con vostra moglie, con le vostre fidanzate. Non sapete, siete dei maschi italiani tipici, maschio perché da vecchio comunista quale sei? Ti piacciono i lager? Ti piace rinchiudere la gente dentro? Ti piace un governo che ci rinchiude dentro casa? Ti dovresti vergognare. Ma continuate, il Genoa tutto mezzo infettato, attenzione, quella squadra. Attenzione, il professor Galli, infettata e stanno benissimo i giocatori stanno perfettamente. Capisci? Il professor Galli, che spesso nel passato si è dimostrato allarmista, eccetera, ha detto addirittura come si fa a votare in un paese dove c'è la pandemia e le elezioni si sono svolte in maniera regolare. Vogliamo ricordare il professor Galli, comunque dice è successo qualcosa di strano, perché non è possibile che questi giocatori erano negativi pochi giorni prima e poi sono risultati positivi. Senti professor Galli, qualcosa in laboratorio, forse un errore, ragazzi. Io non credo nemmeno a questi tamponi, a me me ne hanno fatti tanti ultimamente. Non ci credo, è una puttanata, ci fottono pure sui tamponi, non sono attendibili, è uscito pure uno studio in Gran Bretagna, non sono attendibili, non sono. L'unica cosa sicura è che ci sono 270 persone in terapia intensiva in tutta Italia, cioè nulla, questo è il punto. Lo vuoi dire Gottardo una volta per tutte? Sì, più di me? È un numero misero, non metterebbe in ginocchio nemmono la provincia di Padova. 270 persone vuol dire ma che vuol dire il Genoa è la dimostrazione che tu puoi essere positivo e stare benissimo. E allora cosa cazzo vuol dire essere positivi? Adesso vuol dire che è un pericolo, ma un pericolo per tutti. Adesso che arriva il generale inverno e l'influenza, diventa un grave pericolo. Arriva. E per il vostro sollazzo quotidiano, perché non sapete fare altro che guardare la partita. Grazie. Finché non vedo il test di conferma, la mia ipotesi personale è che sia successo qualcosa in laboratorio. Tutti positivi così mi lascia dubbioso, sempre Galli. Un intero gruppo si positivizzi a distanza di pochi giorni dal precedente test, tutto quanto assieme, è qualche cosa che finché non la vedo confermata mi lascia dubbioso. Ragazzi, ci stanno rompendo i coglioni ed è il momento di fare intervenire ancora una volta Sgarbone. Vai con Sgarbi, avanti tutta ieri sera. Non so che dirti, cosa ti posso dire. Io sono anticinese, ritengo che abbiano delle colpe, ma come si fa a torturare Rampini, Sansonetti, me, il povero Capezzone? Sono 6 mesi che ci rompete i coglioni solo col coronavirus e quando cala è lo stesso, sono morti 18, 12, ci sono i contagiati, chi cazzo se ne frega di essere contagiato? Io mi sono esposto come nessuno, non mi sono contagiato, sarò un coglione, mi pento, ho sbagliato tutto, ma quelli che sono protetti come Berlusconi, vedi come sono finiti, che cazzo è sto coronavirus? Tu l'hai preso e sei vivo, Zingaretti l'ha preso ed è vivo, Briatore l'ha preso ed è vivo, i morti, voglio sapere di cosa sono morti? Saranno morti. Ci sono 35. Certo, è una presa per il culo. No, beh, vabbè, insomma. No. Hanno bruciato i corpi. Non hanno fatto le autopsie. Cominciamo a parlare di questo. hanno bruciato i morti. Beh, non hanno fatto le autopsie, amica mia. Adesso si spinge oltre. Andiamo, avanti tutta. Io spero che tu non condivida questa roba. No, io spero che dubbio, tu non condivida questa roba. Però comincia a venirmi anche su questo. Tu, no, finalmente. Finalmente. Io vivo di dubbio. Io vivo di dubbi. A me viene il dubbio. A me viene il dubbio che siccome sta per uscire. Siccome sta per uscire un grande libro edito dalla nave di Teseo, viene il dubbio che ci sia un macroscopico conflitto di interessi su cui chiedo alla magistratura di indagare. Ma che c'entra Elisabetta Sgarbi con Vittorio Sgarbi? Che si chiama Nudi di Cruciani, è giusto, questo è vero. Edito dalla nave di Teseo. E io chiedo alla magistratura di indagare su questo perverso conflitto di interessi. Ma non c'è nessun conflitto di interessi. È perverso. È da anni che Sgarbi interviene qua. C'è un culo di mezzo, quindi c'è anche della perversione. Senti. C'è il coronavirus, è una tragedia, ma io cosa c'entro? Perché devo essere torturato? Fammi parlare di mio padre, di mia madre, del Trasimeno, di Piero della Francesca, dell'ultimo libro di Rapini, dell'ultimo libro mio con Giorello, Il bene e il male, è morto sul coronavirus. Niente da fare, dobbiamo parlare di, non lo so, la Cina mi fa cagare, no, non ma so che dirti, va bene. O con Taiwan. Ma poi vedo te, che sei così bello, hai avuto il coronavirus, forse fa bene, migliora, sei più intelligente, sei più sveglio, aumenta le erezioni. Bisogna chiedere a Berlusconi. Cioè, Berlusconi ha 84 anni, magari potremmo domandarglielo, chiama Berlusconi. Avanti tutta, Meluzzi, andiamo con Meluzzi, un virus perfetto per una psico-info-pandemia. Siete su questa linea? Sono sulla linea di nessuno, però ho molti dubbi, amico mio. Con 270 persone in terapia intensiva, è legittimo. 270 persone in terapia intensiva in tutta Italia ci stanno terrorizzando su una possibile seconda ondata, su una seconda ondata già in atto. In Campania vuole chiudere tutto, anzi, ha già chiuso locali, è un bar. I banchetti non si possono fare. Cioè, De Luca, dai, su, ragazzi. È un perfetto virus per una psico-info-pandemia, che è questa poi in definitiva. C'è una pandemia che può essere mantenuta soltanto se si combina con una strategia comunicativa permanente ed efficace. Fermala! Che è quello che sta accadendo in Italia. Eccolo là. Questa è novità, questa è una grossa novità stasera. Allora. Ho scopato molte donne che non ho amato. Minchia, avrei speso un capitale gottardo. Ma vai a fare in culo, va. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Comunque Sgarbi, che a Quarta Repubblica fa lo sproloquio da testa di cazzo, qual è? Perché Sgarbi è una testa di cazzo, ok? Mentre fa lo sproloquio del cazzo da testa di cazzo, fa la marchetta al libro che ha appena scritto. Allora, Sgarbi sei una testa di cazzo. Giusto, qual è il problema? Voi siete più teste di cazzo di lui che lo continuate a chiamare in quella trasmissione del cazzo. Tu sei un coglione, posso dire, tu sei un coglione. Negli Stati Uniti d'America c'è il Ku Klux Klan. Sì. In Italia c'è Cruciani, sì. Spatalino, Senaldi e Meluzzi. Sì. Mamma mia, allucinante. Un altro imbecille, questo qua, un altro cretino totale. Io sono a favore delle automarchette. promuoverò il mio libro come non mai, come nessuno ha mai visto. Metterò i cartelloni qua dietro. Questa volta, guarda, non faccio prigionieri. Metto come i cartelloni, cartelloni qua dietro. Qua dietro, qua ma dietro. Ma l'ho fatto io con i falsari. Mi dicevi sempre giù il microfono. Ma tu mica sei conduttore, però. Ma c'è una copertina pazzesca. Sì, la copertina io metterò qua dietro. Qua dietro, un grande cartellone qua dietro, almeno per 30 giorni di seguito. Per 30 giorni di seguito. Se qualcuno mi dice qualcosa, lì? Se qualcuno mi dice qualcosa, ricorderò vecchi episodi di autopromozione in questa radio. Oh, stavolta mia, non fa, ti dico, non sai faccio cosa, prigionieri. Sai cosa farò? Sai cosa farò? Chiamo il Kodakons. No, chiamo il Kodakons e ti faccio togliere il cartellone attraverso il Kodakons. Questo è interessante. Sì, questo è interessante. Assolutamente. Donzelli, l'avvocato. Assolutamente. Chiamo Donzelli. Meluzzi pensa all'immigrazione clandestina afroislamica. Senti. L'Italia non è il ventre molle, è il ventre mollissimo di questa Europa. È stato deciso in qualche modo che questo sia un grande campo profughi, grande hotspot dell'Europa per la migrazione africana e afroislamica. Sarà la catastrofe in Italia, una catastrofe assoluta, ma non solo demografica, non solo culturale, soprattutto economica, perché queste persone non vengono a pagarci le pensioni, vengono a prenderle le pensioni, perché, come dire, generano un costo improduttivo per l'erario italiano che produrrà degli effetti inimmaginabili a breve tempo. Prepariamoci a diventare un grande hotspot, un grande campo profico abitato da milioni di africani, e può darsi che si viva benissimo, non lo so, mangeremo il couscous. Wow! Mangeremo il couscous. Ma già si a mangia me, il couscous. A me piace, a me già piace si mangia il couscous. Un hotspot, un enorme campo profughi con milioni di africani. Ragazzi, ditemi che volete Pappalardo. Ditemi che volete sentire Pappalardo. Ditemi che volete sentire Pappalardo. Io urlo la verità, @gmail.com. È vero che la televisione ha urlato, hanno superato il milione di morti. Bisogna vedere se questi milioni di morti sono tutti di Covid o di qualche altra malattia. Però. Altroni. Vostra quanto posizione, questo mi preoccupa. Quanto siete imbroglioni, imbrogliati i dati, imbroglioni. Però scusa, potremmo dire la stessa cosa quando lui ha detto che votava no al referendum, uguale, uguale come te. Beh, il fronte del no era molto più ricco, diciamo. Il vostro fronte negazionista del virus invece è piuttosto ristretto. Ma non è negazionista. Io sono per la vita, io sono negazionista della negazione della vita. E stare chiusi in casa è la negazione della vita, Parenzo. Dai. Ma io non voglio stare chiuso in casa per nulla, ma dico misure adeguate. Chiudere il calcio. Che cazzo. Coloro che vengono vaccinati sono quelli che prendono meglio il contagio. Beh. E prendono più forte il contagio da Covid, come è successo a Bergamo e a Brescia, che tutti lo sanno che ci sono state più morti lì perché tutti ci sono stati più vaccinati. Ma figurati. E poi riporta alla mente quello che abbiamo scritto noi nella nostra relazione della commissione d'inchiesta extraparlamentare sul Covid-19, che cosa hai fatto? Che quando c'è stata la vera pandemia d'inchiesta del 1918 della spagnola, morivano quelli che erano vaccinati. Ma cosa ha fatto questo? Una commissione ha fatto? Una commissione. La commissione extraparlamentare. Vogliono vaccinarci per sterminarci, senti. Perché vogliono vaccinare tutti. E a quanto pare è vero quello che si dice in giro. Vogliono ammazzare la popolazione mondiale. La vogliono sterminare. Li vacciniamo, prendono il Covid e muoiono. Ma figurati. Complimenti. Joseph da Livorno. A questo punto interviene Joseph. Vai Joseph, vai. 800 24 00 24. Joseph, vai. Cruciani. Dimmi Joseph, dimmi. Sei un testa di cazzo. Sì, non c'è dubbio, può essere. Sei un testa di cazzo, sei un bastardo. No, calma Joseph. Tu sei un musulmano, sei un extracomunitario, cosa sei? Me lo immagino che mi dicevi così, bravo, guarda. Sei muslim? Tu sei muslim? Sono muslim, sì. Sei muslim, che lavoro fai? Camionista. Ah, camionista muslim. Ma tu quando preghi, come fai? Ti fermi col camion, metti il tappetino giù? Certo, quando c'ho tempo guardo una piazzola, mi fermo. Dillo a quell'ebreo del cazzo di stare zitto. All'ebreo del cazzo ma come si permette sto musulmano? Senti che aggressione. Ma io stavo difendendolo, ma come si permette? Io ho detto giusto, che bello. Tu lanci la pietra, poi torni indietro. Io pietra, ti conosco ma nessuna bene. Pietra stavo difendendo, la imbecille che non è un altro. Stavo dicendo che è legittimo che lei tiri fuori il suo tappetino e preghi rivolto verso la Mecca. Ma sì, perché sì, mi deve rompere tappeto, i coglioni? No, tappetino, il mio tappeto. Ma sì, prego. Quel tappeto, d'accordo. Prego, tappetino, come tu facevi il digiuno ieri, che non hai nemmeno andato a lavorare? Ma io non le ho rotto le balle a lei. Ho detto che fa benissimo a fermarsi. Vabbè, Joseph, a che volevi dire? Scusa, Joseph. No, ho chiamato per fatto di uomini sessuali gay. Che cosa vuol dire sugli uomini sessuali gay? Sono malati, sono malati come te. Ma io lungo andare a ascoltarti e sto scoprendo tante di quelle belle cose, perché sei malato pure te. E piano piano la tua malattia sta uscendo fuori. L'altro ieri che sei andato a fare la visita alla prostata, hai detto che c'è una prostata piccolina. Sì, allora... Un mese fa hai detto che ti piace anche a prenderla a quel posto. No, veramente non l'ho detto. Ma anche fosse così, che ci sarebbe di male? Non credo. Perché sono malati gli omosessuali? Scusami, spiego. Sono contro natura. Ah, lo vedi il muslim però che esce fuori? Lo vedi il muslim che esce fuori? Dai. Nei paesi musulmani, c'è un'omosessualità molto diffusa. Siete contro natura. Ma digliela a qualche gay, digliela a qualche froci, non c'entro niente. Digliela a qualche... No, perché te li difendi. Certo, l'altro ieri dicevi ma non sono malati. Ma certo non che no, ma perché dire... sono malati? Perché dovrebbero essere malati, Joseph? Spiegami. Ma secondo te cosa sono? Ma sono persone che hanno delle voglie diverse dalle tue. A te non piace metterlo nel culo, a parte che secondo me tu lo pigli in culo tranquillamente, Joseph, senza problemi. Beh, posso dirti? Sono sicuro che Joseph lo prende nel culo. Uno che dice così, uno che parla in questo modo. Mai. Cruciani, quale persona? Mai. A me mi dà fastidio anche a lavarlo. Sì. A parte che lo lavo 5 volte al giorno, che lo tocco con le mie mani, figurati che lo do a altre persone. Te sei malato, fai queste cose. Ma non ho capito perché dovrebbero essere malati gli omosessuali, non ho capito bene il motivo per cui dovrebbero essere. Ma uno che va contro natura, che cos'è secondo te? Ma non contro natura, ma chi lo decide cos'è la natura? Tu chi lo decide? Allah lo decide. Senti l'altro, te l'ho detto che lui lancia la pietra poi torna indietro. Mamma mia. Cosa sono? Non sono contro natura. Ma chi lo decide? Come Allah, voi? Il tuo Allah lo decide. Mia, il tuo Allah. Come voi gli ebrei quando fate le orgia, quelle cose ma lì. Ma chi le fa le orgie? Ma come si permette? Ma scusa, ma non facciamo nessuna orgia. Io le porto via tutto il camion. Ma che cosa dice da lì? Ma scusami, orge? Ma Maometto, Joseph. Ma lei è scemo. Ma non credo, ma Maometto, non è che pensa così degli omosessuali, signor Maometto? No, non lo pensa così, ma io sì. Ma dai, su, sei una vergogna, posso dirti, sei una vergogna. Se tu pensi la vergogna sei te. Poi come lo vuoi chiamare? Che l'altro giorno dici quando lo chiami gay e ti può anche denunciare. Ma come lo vuoi chiamare? No, tu lo chiami. Come lo vuoi chiamare? Tu li chiami te? Froci, tu dottor li chiami... uno che lo prende in culo? Fermola. Ma che vuoi? Fermola, ma cosa dici? Fermola. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Vai tu, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se vuoi mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Beh, considerando che il culo di Cruciani ha fatto tanto scalpore e che un sacco di persone ne stanno parlando, si potrebbe dire che le chiappe di Cruciani sono letteralmente le chiappe più chiacchierate d'Italia, nel senso proprio di chiacchiericcio, no? Tra l'altro sono molto curioso di sapere il commento di Efeball a questa foto, che secondo me quelle chiappe le conosce molto bene anche da visita. Film porno gay ne hai visti pochi. Ai. Caro Cruciani, io ti voglio bene, ma è ora di fare outing. Oh Crucio, ma dov'è che hai letto che i cacciatori amano la natura? Sul Corriere dello Stronzo? Qua? No, una constatazione molto semplice, che i cacciatori sono persone che amano stare in mezzo alla natura, sì, amano gli animali. E amano, amano gli animali, certo, spesso chiaro, più dei cosiddetti animalisti. Ma più dei cosiddetti animalisti, tanto da sparare, ma tanto da sparare a loro, ragazzi, e anche i cuccioli. Ma vi assicuro che è così, vi assicuro che è così. Ma amano gli animali, ma dall'alto di cosa? Ma dall'alto della conoscenza, della conoscenza di moltissimi cacciatori, ma adorano gli animali molto più degli animalisti che li considerano dei feticci. Ma non è vero, e considerano gli animali per quelli che sono, cioè dire degli animali. Va abolita la caccia, va abolita la caccia sui terreni dei privati. Comunque, ragazzi, qual è il conduttore radiofonico che riceve in regalo dei peli pubblici di una pornostar? Dei peli non pubblici, dei peli pubblici. Cioè, ho ricevuto, poi vi dirò il nome, dei peli di figa, dei peli di figa di una pornoattrice, di una pornoattrice. Tu di solito ricevi dei regali, non so, il regalo dei libri, caro Parenzo, no? Dei saggi. Non so, libri, magari delle bottiglie cravatte, di vino, delle bottiglie di vino, bottiglie di vino, delle cravatte. Io ricevo il regalo dei peli pubblici, dei peli di figa di una pornoattrice molto molto pelosa, molto molto pelosa. Appunto, ti dia incomodato anche quello che no, non mi interessa, mentre ho delle notizie, mi arrivano delle notizie. Notizie, no, mi arrivano delle notizie che in quel di Abano Terme, cioè nella residenza, sì, praticamente invernale, autunnale di, certo, Gottardo, per motivi sanitari, diciamo, per motivi fino di dicembre, posso dirti che sto qui fino a Natale. Benissimo, è arrivata una signorina che gli farà compagnia, non so se, sì, si arriverà alla scopata. Trattasi di una signora, di una signorina poliamorosa, la nostra amica Francesca. Cioè, applausi a Gottardo, applausi, facciamo un applauso a Gottardo, mettiamo subito, zanzara, eccolo qui. Sì, sì, sì. La zanzara procura live, figa a Gottardo. Live. Questa è la realtà, sì, poi Parenzo, la realtà dei fatti è quella. Mi procura, siamo precisi, mi procura sesso orale, nel senso che ne parliamo e basta, purtroppo. E se ne parliamo e basta, dipende molto di più dalla poliamorosa che da me. Per quanto mi riguarda, Michele da Vicenza, vai, incredibile. Guarda, la zanzara procura figa Gottardo. Cioè, dire, senza la zanzara, senza la zanzara sarebbe ancora rimasto, capito, a una donna negli ultimi 10 anni. Michele alla da Vicenza, alla Clara, una cosa pazzesca. Dai. Michele da Vicenza, dai, Michele, diciamo tutta la verità. Diciamo tutta la verità. Dai, Michele, dimmi. Alla Clara, allora, io volevo intervenire. Sì, dimmi, Michele. Riguardo il COVID, sì, Michele, perché ci ho lavorato, ci lavoro. Sì. Che vuol dire che lavori sul COVID? In reparto, sono medico, lavoro in reparto COVID. Sì, bene. Sentire quello che avete detto stasera. Che cosa abbiamo detto stasera di così strano, Michele? Ma più che altro perché alimentate queste idee negazioniste riguardo al COVID. No, qual è l'atteggiamento superficiale? Scusa. Chi ha detto che bisogna avere un atteggiamento superficiale? Ho detto per caso che non bisogna violare molto le regole sul COVID? Molto. Ho detto che bisogna violare le regole? Ho detto che non bisogna mettere la mascherina dove è obbligatorio metterla? Ho detto che bisogna fare assembramenti? Ho detto che bisogna andare, Emiliano, a fare feste con 100 persone? Michele, ho detto tutto questo, allora che cosa dici? Uno può avere dei dubbi sull'allarmismo che Vi siete già dimenticati tutto. Voglio sentire dove Michele. Lavora? No, voglio sentire dove Michele. Lavora questo Michele? Michele, dimmi. Provincia di Vicenza. Allora dimmi, qual è il punto? È un reparto COVID? È un reparto malattie infettive? Sì, ospedale COVID. Benissimo. Provincia di Vicenza. Nell'ospedale dove lavori? Ma fammi sentire. Adesso, quante persone ci sono ricoverate adesso con il COVID a causa del COVID? Dire? Non lo sappiamo ancora, però. Come andrà la malattia? Allora, fammi sentire. Intanto questo non dovrei dirvelo. Comunque io ve lo posso dire, a mezzo reparto in medicina interna e dei pazienti in terapia intensiva. Sì, dei pazienti in terapia intensiva è troppo generico. 270 in tutta Italia saranno. Sì, ma infatti, ma perché adesso i dati sono ancora. I numeri sono ancora questi. Se noi dovessimo tornare ai numeri di marzo-aprile. Se dovessimo tornare. Allora se andiamo tutti in giro come stiamo facendo. E che dobbiamo fare invece? Blocchiamo tutto. Il tuo stipendio. Sai da cosa hai pagato lo stipendio tuo? Dalla gente che va a lavorare tutti i giorni in fabbrica. Se chiudono le fabbriche, ma non, certo, pagano neanche il tuo stipendio. No, io starei molto attento. Ma infatti non ho detto che non bisogna andare a lavorare, io ho detto che bisogna avere un certo criterio. Ma grazie al cazzo, ma questo lo sappiamo tutti che bisogna avere criterio. Grazie al cazzo, Michele, ci viene qui a dirci, viene allora qui a dirci. Andare allo stadio. Ma chi ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha, in altri paesi sono andati, a parte che in altri paesi hanno creato le condizioni perché ci fosse un'entrata di tifosi regolare, controllata. In Italia non lo faranno, va benissimo, non sono qui a battermi per i tifosi allo stadio. Questo è un altro discorso, nessuno si batte per i tifosi allo stadio. Giustamente il calcio non vuole essere trattato diversamente rispetto ad altre cose, altri eventi, altri settori. A teatro ci si può andare? Al cinema ci si può andare? Si potrebbe consentire l'ingresso a 5.000-10.000 persone allo stadio, ovviamente distanziati. Non lo si vuole fare, pazienza, ma non è che si può rinunciare a campare. Appunto, pazienza. Non è che pazienza, si può rinunciare, esatto, a campare. Ma si possono tagliare alcune cose. Ma poi Michele, non ho capito, sì, Michele, non ho capito Michele che cosa vuole. Ma poi infatti ci vuole buon senso per fare. Ma grazie cose al cazzo, non Fabio da Pisa. Devi chiudere le fabbriche. Fabio da Pisa, vai, Fabio da Pisa. Bravo, a me quando, quando uno viene qua, dimmi, ci vuole buon senso. Come dice Parenzo, ti giuro, spaccherei qualcosa. Fabio da Pisa. Ma è una frase talmente ridicola. Ma chi lo dice? Altri lo fanno in Europa. Che sono coglioni quelli che fanno entrare 5.000 persone. In Europa sta succedendo il disastro. In Europa c'è il disastro. Disastro. Noi siamo gli unici fighi, siamo noi, dai, Fabio da Pisa. No, i più virtuosi, sicuramente. Ma Davide, ma dovranno chiuso un cazzo invece, dai. Ma sarà più pericoloso andare al ristorante che allo stadio che è all'aperto, scusami. Fabio e da Pisa, sono beh, i numeri sono diversi. Io sono nella merda. Perché? Totale. Perché non ho turisti e ho grandi problemi con il mio hotel. Ecco, vedi, vedi, questi sono perché problemi. Perché me ne frega a me. No, no, me ne frega, ma no, fatti sentire meglio però col telefono, Fabio, se no non sento un cazzo. Sono messo benissimo. Dimmi. Ascoltami, io ho tre strutture alberghiere, sono sotto la Torre di Pisa, sì, e ho prenotazioni nell'ordine del 20%, 14 persone in cassa integrazione, di fornitori da pagare. Questi sono reali problemi. Questi io ho una soluzione. Prezzo, ascolta ste robe. Io ho una soluzione. Ma io no, conosco ora questi attenzione, problemi. Attenzione, attenzione, perché ora mi andrò a beccare tutti gli improperi, gli insulti di parenti. Io ho avuto un'idea nel mio piccolo, nel corso delle mie vecchie esperienze che ho fatto in Germania, in Austria, sono andata a frequentare dei club dove c'erano delle signorine, arrivi, ti danno una asciugamano, okay, anche se in Germania oggi manco puoi scopare negli FK, però, lo so, però magari non attivo questa cosa, è una cosa a cui penso altra da anni, follia che non si può scopare negli FK, ma se la prostituta e il cliente sono a favore, ma che ve ne frega voi del coronavirus, è una follia, capito? Vai Fabio, dimmi. Ma che c'entra quindi questo con il problema del COVID? Aspetta, fammi sentire. No, non c'entra niente col problema del COVID, c'entra perché se si riaprisse piano piano il COVID attenuasse la sua morte, un modo per uscire dalla morte economica e dalle difficoltà potrebbe essere un provvedimento del governo volto finalmente a legalizzare questi FK. Cioè, non vorresti trasformare i tuoi alberghi in una lo so che sembra un'eresia. No, ma questo è ottimo. Dunque tu sei proprietario di tre alberghi a Pisa, tre alberghi al centro di Pisa, se non sì, ho capito male. Vicino alla torre, sarebbe una figata. Vicino alla torre vorresti trasformare uno di questi alberghi in un bordello. Sì. Questa è la sostanza. Sì, sì, ma così volgarmente. Parenti ora ovviamente non ridico. Però pensa te cosa? Questo pensa a fare i soldi, deve campare, come deve sopravvivere. Come se lui risolvesse i suoi problemi diventando un magnaccia. Non voglio diventare un magnaccia, però Parenzo, ascoltami una cosa. Se tu vieni a Pisa, veramente, prendi l'autostrada, esci al casello Pisa Nord, appena passato il cartello Pisa, trovi 10-15 prostitute. Sempre. E tutte sono gestite dalla malavita albanese. Certo, almeno mettiamole nell'albergo di Fabio, legalizzate, controllate. No, dico io, ho chiaramente una provocazione. No, ovviamente detto così. No, detto ma sto così, dicendo in generale, mettiamole così, nell'albergo che... Ma non sto detto figurati se ti derido io che sono a favore di queste cose. Allora, mettiamole nell'albergo di Fabio, facciamole controllare. Lui incassa dei quattrini, lo Stato incassa dei quattrini e vaffanculo, tanto la prostituzione. Funziona anche col COVID, funziona. È normale che i turisti quando arrivano all'hotel mi dicono usciti dall'autostrada, ma Pisa è una città povera, come mai ci sono tutte queste prostitute? Ma no, è meglio che le trovino direttamente in albergo, ti potresti rispondere questo. Ciao Fabio, Salvatore da Como. Salvatore, dimmi Salvatore. Ciao Cusciane, grandissimo. Dimmi Salvatore, dimmi. Niente, io ho chiamato per parlare sul fatto delle checchine che si lamentano, che uno non può dire più Frocio, Finocchio. Le chicchine che si lamentano. Arrivo subito, Salvatore, ecco. Arrivo subito, non ti preoccupare. Beh, arrivo subito. Fermo lì. Così, è spregevole. Checchine ha detto. Checchine. Un linguaggio spregevole. Che vuoi fare? Lo vuoi mandare in galera, Salvatore? Lo vuoi multare. Lui lo vuole multare perché ha detto le checchine. E mandare a pulire i bagni all'Arcigay. Mandare a pulire i bagni all'Arcigay senza i guanti. Torniamo con Salvatore da Como, che mi sembra camionista. Mi sembra, no, Salvatore, camionista. Un grande camionista, 25 anni di servizio, fascista. Pure. E devo dire a Parenzo che io ho il diritto pure di dirgli connuto a lui. Vabbè, questo è diritto, fanculo. Perché siamo in democrazia, quindi posso dire veloci. Ma io non ho capito, c'è questa idea di c'è questa idea della democrazia, che ha fatto passare Cruciani, che vuol dire insultare. Cazzo, non state lì a dire minchia, no, democrazia non vuol dire insultare. Bravo, brutta testa di cazzo, brutta testa di cazzo. Sei un cornuto, un maledetto. C'è questo principio strano. C'è questo principio strano. C'è questo principio strano che Cruciani ha fatto passare. Che democrazia è insultare. Tu sei un coglione. Laura! Che c'entra Laura? Che è un'altra cosa. Fermi, non ricordo questo sono io la divina Laura. È una checca, sei parente, tu dipendi da gente. Fermi tutti, meglio cogliere, ma almeno scopo con le donne, con la fregna, no, con lo spicchio. Sì, sì, va bene, sabato torno un attimo, fermo la, torno anche con TikTok, fermo. Laura! Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Volevo dire al signor Ciacci a capare che hai camello obeso cu pizzo color puffo. Io volevo dire, signor Ciacci, lei è libero di fare quello che vuole a casa sua e nessuno si deve permettere di discriminarla, nessuno deve dirle parolacce e nessuno deve discriminare la gente a cui... cioè, la gente non può essere discriminata per i gusti sessuali. Su questo siamo tutti d'accordo. Però, ma lo deve fare capire lei a me, perché io non ci arrivo. Perché a me... cioè, io perché non sono libero di dire... a minchia no culo mi fa schifo, perché non lo posso dire? Io ritengo che prendersele in culo sia una cosa schifosa. Ragazzi, nulla dai. Contro di lei, ma secondo me pigliaresele l'anno culo è una cosa schifosa, una cosa indegna. Perché io non lo devo poter dire? È perché giusto. A me mi impedite di dirlo? Non ma l'ho chi? Capito. Perché se lo dico mi dovete processare con questa legge che state facendo? Non l'ho capito. Non va a piacere a tutta la minchia anno culo per essere contenti lei, signor Ciacci, o signor Casalino, e tutti si spaccato anno culo che siete, non lo so. Non va a pigliare tutto anno culo e siete tutti contenti? Ma non succederà mai. Quindi già mi sembra che siete troppo avanti, cioè come andate vuoti i fonocchi, chi minchia volete che sai, non rompete i coglioni. La sintesi del grillino palermitano, ma scusa, c'è una differenza sintesi, fondamentale, dai, la libertà che non contempla comunque, l'offesa, ragazzi, che editoriale è un grillino, gran maleducato, dai. Quello lì è un cretino, proprio è un cretino alimentato da te, che gli hai fatto passare il messaggio, lo hai convinto che insultare è lecito. Questo no, è il tema. No, tu ti sbagli, no. Lui dice che può tranquillamente dire che prendere no, le culo no. fa schifo. E invece no, e non lo può dire tranquillamente. Ha tutto il diritto di dirlo, assolutamente sì. Non, è così, non offende non nessuno. È così. Se a te fa come schifo, no? A te fa schifo, che ne so, il fegato alla veneziana ti fa schifo, e a lui fa schifo cosa, prenderlo nel culo. Lo può dire o no? Dai, su. No, non lo può dire. Allora, eravamo con Salvatore da Como, camionista, molto esplicito, molto fascista, dice lui. Ammiratore di Mussolini, mi sembra di capire, Salvatore, no? Ammiratore di sua eccellenza, certo, non c'è dubbio. Ci mancherebbe altro, adesso non esageriamo. Hai dato a Parenzo del frocio, del finocchio, mi sembra di capire. Peggio, che china l'ho chiamato, che sarebbe frocio isterico. Frocio sì, isterico, diciamo, non china, appartengo a questa china. Categoria perché, come tutti sanno, sono eterosessuale, ma ciò non di meno. Ciò non di meno, le voglio dire che invece lei è un coglione. Lei invece è un coglione. La sua testa è talmente una testa di cazzo, talmente che viene usata negli esperimenti scientifici. Perché sono qui a parlare con te come una merda del genere, capito? Pascaldo, che chiede che non sei l'altro. Criminale, non puoi impostare un discorso. Sei una cosa inutile. Scusami, Salvatore, ma tu dentro al camion, Salvatore, tu hai i simboli del duce, no? Per sapere così che no, posso... No, questi qua non li posto perché la ma mia azienda non vuole donne simboli nude sul camion. La tua azienda delle donne nude. Io sono cristiano, li metto queste cose sul camion. Le donne nude. Bianco e cristiano. Scusi, scusi, io sono cristiano e io ho sempre lavorato. Due mantra che francamente rispetto a quello che ha detto le fanno vergogna. Per quello... Ah, io sono cristiano. Eccolo, eccolo, sentilo. Lei è cristiano, però vero? Eccolo qua, lei è cristiano. Il messaggio di Bergoglio a lei non è arrivato. Il messaggio di Bergoglio a lei non è arrivato. Scusami. Non si sente però che è cristiano. Dai toni si sente che è cristiano. Si sente dai toni che è cristiano questo imbecille. E si sente anche da te che sei ebreo. Eccolo qua. Ma che c'entra? Calma, fermala. Fermi un attimo che non c'entra niente qua. Allora voglio capire una cosa. Perché utilizzi la parola frocio? Io ti giuro, per strada una testata sul naso gliela do. Però così. E poi mi denuncio. E poi mi denuncio. E poi mi denuncio. E poi mi denuncio. No. E poi lo denuncio. No, no, ma che, ma perché bisogna arrivare a questi eccessi? Ma perché bisogna arrivare a questi eccessi? Io non ho nessun problema a dire che se lo incontro per strada e lui si presenta, gli tiro una testata sul naso, sul naso, perché sto a Roma, perché intanto sto a Roma. Se viene in Viale Kennedy, fratello, ogni giorno, perché non ci vediamo in Viale Kennedy? Viale Kennedy dove? Quando vuoi, quando vuoi che ti do una bella testata sul naso. Così magari con la testata ritorni in te con una bella testata, capito? Fascistello da due soldi, fascistello da due soldi. Ma scusa, fermi tutto. Perché non fai? Perché non vai verso Abano Terme, Sce Gottardo a trovare Gottardo? Gottardo è un signore per me. Gottardo è un signore per me. Mi dispiace. A me dispiace che lei dica una cosa del genere. Pensavo, speravo che mi insultasse. Sono d'accordo anche con te, però sei molto simpatico e mi sembra una bella persona. Parenzo mi sta sulle palle, Dio Bono. Vabbè, e questo ci accomuna. Allora, noi siamo accomunati. Noi siamo accomunati con i camionisti dalla stima reciproca e dal fatto che anche me sta sui coglioni Parenzo. Lo dico pubblicamente. Forse si era. Scusami, Salvatore, io non ho capito una cosa. Ma mi hai detto prima che la tua azienda non vuole che tu esponi figure del Duce, figure di Sua Eccellenza lì dentro il camion. No, no, il camion deve essere neutro. Pulito il camion. Pulito, neutro. È il lavoro è una cosa a parte. Pulito, ma con dentro una puzza di merda perché c'è chi lo guida che è una puzza di merda e quindi pulito ma con una puzza di merda. Non mi offendi perché tu le palle di venire a Viale Kennedy. Ma perché sto Viale Kennedy? Perché? Che cos'è? Che quello sta Viale Kennedy? Il Viale Kennedy sarà quello dove lo pigli in culo, altro che il Viale Kennedy sicuramente. Altro che, visto che ne parli tanto, brutto cretino. Mi faccio controllare il culo da tua moglie, così vedi che te lo vedi. Calma, Salvatore, voglio capire una cosa, voglio capire un'altra cosa da te, sempre con grande calma. Cioè, tu incontri nella tua attività da camionista degli omosessuali che ci provano con te, magari in qualche piazzola? Quando capita che dormo fuori, capita ogni tanto che vengono a rompere sicuro i coglioni, vedi, e educatamente li mando a fanculo. La tua reazione qual è? La tua reazione, se tu dici che li fa entrare, Parenzo, secondo te li fa entrare? Educatamente li mando a fare in culo. Ma questo qua parla così, ma fa il trenino dentro quel camion, ma ancora non lo sapete. Sto cretino fa il trenino. Sto cretino chiama perché fa il trenino. Arriva l'Eurostar che non fa fermate intermedie. Fa il trenino. Ma non ti vergogna a scemo. Io non sono un camionista dignitosamente, mi guadagno da vivere. Ma quale camionista? Tu sei solo un povero coglione. Che merda, che se ti incontro veramente ti ho tanto. Ma perché mi sta sul cazzo una merda. Questo domina l'Italia e basta. Ma che reciproco. Reciproco. Chi sta parlando qua? Ma chi è questo Umberto Eco che dice la minima intelligenza? Ma chi è questo? Tu esatto, tu sei un coglione, ma non perché non sei. Tu sei un coglione. Ma quale corretta che sei un volgare schifoso? Ma quale corretta, volgare imbecille schifoso? Feccia dell'umanità. Feccia dell'umanità. Scusami, Feccia dell'umanità. Hai detto che sei un fascista. Feccia dell'umanità. Scusami, Salvatore. Feccia dell'umanità. Ma hai detto che sei un fascista, ammiratore di Mussolini. Hai detto, Salvatore. A noi onore a Mussolini. Che è stato un grande. L'unico che è stata la guerra. Ma a chi molla scorregge. Vaffanculo te. Salvatore. Non ti preoccupare. Ciao, Salvatore. Mamma mia, incredibile, ragazzi. Mamma mia, incredibile. Lui la tua colpa è quella di far credere a questi qua che possono dire quello che vogliono. Esattamente. Quindi hanno l'illusione che qualora lo facessero fuori da questo contesto verrebbero denunciati. Questo è il tema. No, ma la cosa divertente è che i fascisti si appellano alla democrazia per poi per insultarti. Luis, provincia quindi di Milano. È meraviglioso. Luis, provincia di Milano, vai Luis, dimmi. Pronto? Ciao, ragazzi. Dunque, Cruciani, guarda, io ti ascolto quasi tutti i giorni, ascolto Barisoni e te. Sì. Due programmi Barisoni, Barisoni non dovresti ascoltare. Lo so che lo ascolti in preparazione della zanzara. Perché? Ma dovresti eliminare l'ascolto della trasmissione precedente. Andare sul podcast. No, per un professionista che stimo in quanto anch'io studente. Certamente. Ho detto dovresti, ma che studente di economia. Dovresti andare sul podcast. Hai molto da imparare da Barisoni. Dimmi. Di Barisoni. Dimmi. È per questo che ne parlo con rispetto. Comunque volevo dire una cosa molto, molto veloce e molto concisa. Allora, io ti ho visto per caso al programma della D'Urso domenica, perché non guardo quelle cose. Non guardi quelle cose, però guardavi la D'Urso. Perché c'era quel personaggio. Mai? C'era quel personaggio che va in giro nonostante la febbre ed è talmente furbo che lo dice pure. Esatto. E nessuno gliel'ha detto. E c'è una cosa. Hanno fatto una polemica, non dite cazzate. Eravate tutti lì ad applaudirlo. Ha fatto il tampone negativo. Ma che dovete fare? Ma che siete pazzi? Eravate tutti lì alla kermesse. E tu che hai un tuo programma, alla kermesse fatta dalla D'Urso. Non c'è nessuna kermesse, è un programma televisivo, coglione. E tu che hai un tuo programma e potevi dire certe cose senza il politicamente corretto, come sei abituato tu a dirli, te ne esci dicendo che faresti pagare a Suarez per avere la cittadinanza. Quindi anche te. Ho detto le stesse cose che ho detto qui, coglione. A te fanno schifo i poveri. Ma va benissimo che tu lo dica. Ti ripeto, fammi parlare. No, perché è un ragionamento populista. Giù questo coglione. Ho detto la stessa cosa che ho detto qui. Ho detto esattamente la stessa cosa, caro Luis, che ho detto qui. Che a mio parere Suarez, pagando un sacco di tasse, dovrebbe avere di diritto la cittadinanza italiana senza passare per questi esami stupidi. Questo penso io. Che cosa volete? Cambiate la legge sulla cittadinanza. Allora dimmi. Così, adesso dimmi. Indirettamente stai dicendo che ti fanno schifo i ma poveri. Non è vero. Ma in tutti i paesi la gente con i ricchi si compra la cittadinanza. In tutti i paesi, in moltissimi paesi. Okay, ma a Monte Carlo sono dei coglioni, in altri paesi sono dei coglioni. Ma Monte Carlo che c'entra? Forse a volte in Italia potremmo essere d'esempio, come lo è stato per la gestione del Covid. Ancora con questa ipocrisia, grande è che poi oggi fanno schifo i poveri, un domani alcune etnie, visto che è successo in passato, a me non fanno schifo i poveri, ma non voglio essere ipocrita. Luis Suarez paga, a parte che ormai il discorso è finito perché è andato all'Atletico Madrid, paga le tasse? Sì, tante tasse, bene, gli diamo la cittadinanza d'ufficio. Io vorrei fare così. Cittadinanza d'ufficio. E tutti gli altri poveretti come Messi invece, che gioca nel Barcellona, paga le tasse, no, e c'è un processo per evasione fiscale, e quindi cosa c'entra il processo? Perché alla fine, perché i ricchi le tasse poi non le pagano in Italia. Ma che c'entra? È un altro discorso, coglione, quello delle tasse, se uno le paga o non le paga, imbecille. Ciao Luis. Ciao. Allora, grande ritorno, Parenzo mio, grande ritorno alla Zanzara. Il filosofo di riferimento. Chi è il filosofo di riferimento della Zanzara? Chi è il filosofo? Cacciari. Il filosofo di Bonaga. Riferimento in tutti questi anni di questa disgraziata trasmissione è solo uno. Sì, di nome Diego come Maradona, di cognome Fusaro. Applausi. Un caro saluto da Diego Fusaro a lei e al sempre rampognando Turbo Parenzo, che saluto con gioia e con gaudio, perché da un po' che non ci sentivamo. Un caro saluto. La saluto con gioia anch'io, caro scalzacani della filosofia. Benvenuto. Allora, grazie. Perché si adombra subito offendendo la propria intelligenza, posto che in qualche iperuranico luogo ve ne sia una. Esatto. Ed è tutto da investigare. È tutto da vedere. Mantenga quella quiete che compete delle parole alla filosofia. Mi fa girare i coglioni già l'uso. No, già queste parole mi fanno girare i coglioni. Ma non so perché. Riapprendere a utilizzare con garbo. Ahinoi, lo conosco. Scusi, ma lei. Ma lei è altresì uno scalzacani? Allora, fermi tutti. Allora, innanzitutto se voglio si attribuisce la qualifica di cane, sì, perché io continuamente la rampogno, ma io non credo che scalza i cani, che deve essere educato alla paideia filosofica, e quindi lei alla è potenzialmente paideia. Un amico, perché in filosofia vi sono solo amici, quindi anche lei è un amico. Allora, fermi tutti. Fusaro ha scritto un libro edito da Rizzoli che esce in questi giorni, che si chiama Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità italiana. Giusto, caro Fusaro? Allora è chi siamo, è il titolo del mio benissimo libro, sottotitolato libro, Le ragioni dell'identità italiana. Cosa che ho già detto, ripetiamolo ancora. Tremando, gli staranno già tremando le vene, i polsi, perché appena sente la parola identità, deve considerare, caro Fusaro, deve considerare che Parenzo è molto amico, nonché alleato, mondialista e soprattutto adora Soros. Adora Soros, nessuno è perfetto. Sì. Che lei invece considera, mi scusi, faccio io le domande, caro Fusaro. Mi sembra di capire che lei lo consideri un mezzo criminale, cioè un signore che andrebbe arrestato. Lo ha detto già più volte, no, o sbaglio? No, arrestato no, non esageriamo adesso. Nel libro c'è tutta una parte su Soros. Ah, pure, che sì. Dello sradicamento dei popoli e del capitalismo finanziario. Quindi Soros è un nemico di classe, come è un suo nemico, cioè un nemico dell'Italia, è un nemico dei lavoratori, un nemico dei lavoratori. È uno speculatore finanziario che come tale opera sui mercati in ragione dei mercati. Ecco, ma lei pensa, non c'entra nulla con l'antisemitismo, tutto questo. Scusi, sia chiaro, sia chiaro, però caro Fusaro, voglio capire da lei, esiste una dittatura sanitaria? C'è qualcuno che ci vuole imporre la dittatura del Covid per specularci sopra, magari con i vaccini? Se ci fosse un vaccino, il filosofo si farebbe vaccinare o no? Questo è importante. Se si sincerasse che funziona, lo si provasse accuratamente, certo, e si facessero le indagini preliminari, ha fiducia o no? Ha fiducia o no? Se lo fa o no il vaccino? Non ho fiducia in chi come Speranza acquista centinaia di migliaia di dosi di un vaccino che ancora non esiste, perché capirete bene che non si può acquistare un prodotto inesistente. Sì, ma lei pensa che dietro questa pandemia ci siano le case farmaceutiche che ci vogliono speculare? Perché questa è una teoria che circola molto nel suo ambiente. Guardi, il nuovo ordine mondiale, le grandi famiglie, gli illuminati, i Rothschild. Ma no, infatti. Allora le dico questo: è molto più articolata la questione. A mio giudizio, stiamo assistendo a una riarticolazione verticale del rapporto di forza capitalistico. Iniziavano a esserci movimenti di opposizione al capitalismo, che erano Occupy Wall Street. Io gli unici movimenti che ho sono i giramenti di balle quando la sento, guardi. Capire reagisce proprio come può. No, ma capisco. Il vaccino se lo fa o no? Il vaccino sicuro, lo farà o no? Sicuro, è semplice. Sì, ma certo che è sicuro. Se è in commercio è vidimato dall'AIFA e da tutti gli altri, no? Può essere utilizzata come esempio. Si farà il vaccino di Putin? Si fida del vaccino di Putin? Putin ha detto che io lo ha fatto. Fido, perché non si va a fare il vaccino del suo amico Putin? Un vaccino che sia verificato e non sia quello di Putin. Lei se lo farebbe quello di Putin? Se lo farebbe o no quello di Putin? Ma da chi? Da lui funziona, è certificato? Ma da chi è certificato? È da lui certificato. Caro amico, la medicina non ha la bandierina sopra, la medicina cura i corpi umani. Come i corpi no? umani sono uguali in Russia come in America, ma come in io Africa, francamente mi fido più degli organi di controllo degli Stati Uniti e dell'Europa. So, se lei si fida di più della Russia, vada a farsi il vaccino di Putin. No, scusi, l'hamburger non lo mangia, signor Fusaro? Ma se non vi è di meglio, sì, ma preferisco le vivande italiane, le pietanze italiane. Le vivande italiane. Significa difendere anche le nostre identità. Io vado ai matti, le vivande italiane. Lei non ha bisogno di andarci, amico mio. Le vivande italiane. Le vivande italiane, signor Fusaro. Bisogna lottare anche contro il gastronomicamente. Come va a casa con la signora? Molto bene, spero anche lei. Sì, che questo la ringrazio. La figlia, tutto a posto? La figlia, tutto bene? Lei tutto bene anche. Però Io gli leggo il libro di Soros sui mercati internazionali. Lei cosa legge al suo figlio? Io anche l'ho letto, perché il nemico va conosciuto, come diceva Seneca. No, ma la figlia lei, che storia legge lei alla figlia? Beh, io leggo, solitamente leggo passaggi del divino Platone, che alla sono figlia, molto alla figlia. Formativi. Ma la figlia di un anno Platone, non ho capito. No, io ho scritto anche un libro per mia figlia, Caro Epicuro si chiama. Ma parla quello, quello gliela tira in testa, è una Caro Epicuro. Ma gliela tira in testa. Scritte, una roba incredibile. No, no, no. Apprezza già moltissimo. Scusi, voglio capire una cosa dico, da lei. Ne parlavamo io. No, aspetti, Fusaro. È talmente intelligente che quando piange. Sì. Dice UE, UE, quindi rampogna l'Unione Europea a suo modo. Addirittura, una roba da pazzi. Allora, scusi Fusaro, io però ieri abbiamo parlato con un professore del valore dell'orgia. Cioè del fatto che una persona, ecco, Parenzo non c'era, il valore dell'orgia rispetto alla monogamia. Lei pensa invece che l'orgia sia un frutto del turbocapitalismo, di un capitalismo sfrenato? L'orgia, l'orgia rispetto... Beh, direi di sì, è frutto di un... di un rapporto non stabile, non familiare, ma una sorta di assembramento istantaneo, chiamiamolo così, che sicuro. Non lascia conseguenze e che di fatto produce queste forme di eros senza conseguenze, di eros anomico, di godimento, anzi di plus godimento libertino, che ricalcano i movimenti del liberismo capitalistico. Beh, sempre di più, diceva Lacan, la formula del... discorso del capitalista. Però, e quindi scusi, anche del capitalista, ho capito, ma è quello che io chiamo il nuovo ordine erotico. Sì, ma ho capito, alla mondializzazione. Ho capito, ma che vuol dire? Se uno ha voglia di fare un'orgia, non è che per forza deve essere un mondialista, però sicuro che uno sia un sovranista e vuole fare un'orgia. È proprio che se si agita questa voglia in lui, è evidente che è già interno a questo paradigma malsano. Però, scusi, poi ovvio che ognuno fa ciò che vuole, filosofo. Per me ma dunque è malsano fare un'orgia, secondo lei? È malsano? A mio modesto giudizio sì, però mi rendo conto di essere inadeguato in questo mondo. Filosofo, sono Alberto Gottardo, mi scusi, sono Gottardo, le ricordo che lei ha scritto un libro, Caro Epicuro. Epicuro avrebbe fatto sicuramente un'orgia, mi scusi, no, sarebbe stato ricco. Di contraddirla, Epicuro metteva al bando l'eros in ogni sua forma, si figuri, in quanto fonte di turbamento o anche di tarachè, diceva Epicuro, cioè il turbamento. Bisogna quindi coltivare le amicizie e non l'eros per Epicuro, quindi figuriamoci. Dunque mi sta dicendo che più forme postmoderne. Quindi era un piparolo. Mi sta dicendo che l'eros, cioè il sesso può essere pericoloso, secondo me. Un eccesso di sesso può essere pericoloso. Beh, secondo Epicuro non un eccesso, ma il sesso in quanto tale genera turbamento, perché porta lei lo condivide Epicuro solo pippe. No, la pippa è sesso. Del bilanciamento in se stessi. E lei lo segue Epicuro su questo? Sotto questo profilo, come può ben immaginare, no, io sono per un eros moderato, per un eros moderato. Che cazzo vuol dire? Il metro, la giusta misura. Ecco, ma che vuol dire un eros moderato per il filosofo? Dia un consiglio, l'eros moderato. Quantifichiamo. Adesso siamo cerchiamo di andare sul concreto. L'eros moderato cosa significa? Una volta a settimana, una volta al mese, una volta No, guardi, già l'idea di quantificare l'eros è figlia ho capito, di questo ma l'eros moderato qualche significato lo deve avere l'eros moderato, scusi. Certo, moderato significa che deve essere una parte della vita, ma non deve essere quella predominante. Platone utilizzava l'immagine della biga alata, il cavallo nero non deve prendere il sopravvento, che altrimenti la biga precipita nell'abisso. E il sesso la biga. E il sesso viva anale, la biga. Sì, viva la biga. Il sesso anale rappresenta una, anche questo fa parte di un qualcosa di perverso, di un qualcosa di orgiastico, di qualcosa di negativo, il sesso anale? Beh, direi che è una forma sicuramente non primaria. Epicuro direbbe che è una forma non necessaria e non primaria. Non ecco, necessaria e non primaria. Però lei lo considera non necessario e non primario. Caro filosofo, arrivederci. Un caro saluto addio. Da Diego Fusaro. Addio. La zanzara. Oh Crucio, ma dov'è che hai letto che i cacciatori amano la natura? Sul Corriere dello Stronzo. Qua? Ma la signora ha ragione da vendere. Un giorno mi sono trovato un cacciatore da solo che ha sparato coi pallini, mi sono arrivati sul tetto. Ho preso, sono andato in bici, l'ho raggiunto e a momenti se la fa sotto il testa di cazzo. Ha ragione la signora, non rispettano niente. Solo perché hanno un fucile in spalla, caga sotto. Comunque sto ascoltando adesso il podcast e vorrei dire a Gottardo che io pago 300 euro e passa di tasse solo per camminare in quel campo, quindi che non rompesse troppi coglioni perché io sono autorizzato a camminare in quel campo. Now, Grazie, andiamo a Francesco da Forlì. Francesco da Forlì. Dimmi sì, Francesco, dimmi. Dimmi. Intanto, caro Parenzo, voglio aspetta Francesco, cerca di mettere bene il telefono. Sì, voglio dirti che una porno attrice abbastanza conosciuta, molto pelosa, che si chiama Sofia Siena. Sofia ti manda una cartolina con lei messa un po' a pecorina. Eccola qua, la faccio vedere. Sofia dove l'ha Siena, mandata sta carta? Qui alla Radio 24, del Sole 24 non ore. A me, non. Sofia, ma Siena, che Sofia Siena. Ma che vergogna. Per David Parenzio, così scrive, un caldo bacio sulla cappella. Per farti, per farti sognare le mie calde e carnose labbra. Ma kiss, non me ne frega nulla. Eccolo qui. Kiss, non me ne frega niente e non sono Parenzo, quindi non è indirizzato a me. No, è te, no sei perché tu. Non sono io il destinatario. Ringraziala, io sono Parenzo. Ringraziala, ringraziala. No, grazie, non ho richiesto niente. Non per ho richiesto David nulla, Parenzo, un caldo bacio sulla cappella per farti sognare le mie calde e carnose labbra, kiss con ma tre cuori, Sofia. Ma chi se ne frega? Ma perché devi trattare così? Ma non la tratto in nessun modo, non ho chiesto niente a e nessuno. Lei invece, io di signore gentilmente ti senza vuole le mutande la cappella, che mi mandano cazzo le foto, non mi interessa, non voglio baciamenti di nulla da parte di questa signora, grazie. Signora, pazzi, signora che è autrice dell'autobiografia Calda come l'Etna. Sì, assolutamente calda come l'Etna. C'è anche un messaggio per me. Mi scuso, ma non l'ho ancora letto. C'è anche un messaggio per me. C'è anche un messaggio per me che è un po' diciamo un po' hard, diciamo, lo leggo più tardi. Per Giuseppe Cruciani, sognare di avere la mia piga pelosa sulle tue labbra, mamma e farti mia, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Lo leggo più avanti. Dennis da Bolzano, vai Dennis, dimmi. Intanto hanno rubato, mi rompono i coglioni da Napoli perché dice: cosa avresti detto nel caso in cui fosse successo a Napoli quello che è accaduto a Ventimiglia, dove il sindaco mentre faceva un'intervista gli hanno rubato il cappotto, gli hanno rubato la giacca, adesso mandiamo in onda tutto, vai Rapelli, vai. Perché mi stanno chiedendo su WhatsApp chi garantisce la polizia locale, chi è che controlla i soliti, chiamiamoli furbetti o coloro che dimenticano la mascherina, che dimenticano questa ordinanza. Chi deve controllare? No, devi controllare poi gli altri. Sì. Sindaco, sì, mi scappa il sì. No, sindaco, un attimo. Cos'è successo? Mi ha portato via la... Cosa? Il giaccone. Giaccone, gli hanno portato via il giaccone. All'improvviso gli hanno portato via il giaccone. C'era la panchina, la vicina, il sindaco di Ventimiglia. Ha dimenticato lì, aveva appoggiato lì il giaccone. Quindi non a Napoli, come dici sempre tu. Non bisogna a Napoli, sempre e quale città? Bisogna sempre vedere chi è. E quale città? Dennis da Bolzano. Mamma mia, bisogna come sempre sei vedere chi è. Bisogna sempre mamma vedere mia chi è. Dennis tu da stai Bolzano dicendo che i napoletani sono ladri. Sarà, è incredibile. Sarà forse un trasfertista? Sarà forse un trasfertista? No, ma scherzo. No, vergognoso. Fosse un orologio non avrei dubbi. Dennis da Bolzano, vai. Buonasera, volevo capire da Gottardo cosa ha con la chiusura della caccia. Siamo la categoria più sopraffatta, ma dobbiamo certo stare alle ma chiusure, certo, alle chiusure. Ma su sì, due mesi abbiamo le giornate, le chiusure di ma silenzio venatorio. Certo, silenzio agli stronzi, quando è che lo fanno alle volte? Perché mi dica. Dennis, allora lei è per la tutela della proprietà privata, immagino, no? Ma la proprietà privata è tutelata. Bene. Se lei c'è il suo fondo, se lei il suo fondo, se lo io recinta un campo, se io lei un campo, io non voglio che gli stronzi dei cacciatori vengano a rompermi i coglioni. Va bene? Lei fa le leggi, lei il campo lo recinta con la rete antiselvaggina, mette le tabelle, lei prevede la legge, non rompa i coglioni, la selvaggina che nel suo campo è di proprietà dello Stato, a disposizione dei cacciatori, non rompa i coglioni. Perché deve essere a disposizione dei cacciatori? Io ho votato la ragione contro questa legge. Lo prevede, e perché deve essere a disposizione e sua? Se non ti lei piace cambi casa, se non ti piace cambi casa, non rompi i coglioni. No, basta recintare, gli animalisti rompono i coglioni di recintare gli orse, le cattate, gli agricoltori devono mettere, possono recintare le tagliole. Devono mettere le tagliole contro i cacciatori. Ci le tagliole sono sopra vietate, come una lepre. Gli agricoltori, no, contro i cacciatori, non contro i conigli. Ma lei mi spieghi perché ma lei sa cosa vuol dire recintare un ma sono i suoi amici animalisti. Voi lo sapete cosa vuol dire in Malga recintare per il lupo, per l'orso che qui bravo, ci rompono i coglioni. E voi non lo potete fare giù in pianura, lì nella triste pianura, cazzo. Ma e noi lo dobbiamo fare a 2000 metri, guardi, in mezzo ai sassi di un tarcemi. È triste perché voi vi tenete tutti i soldi che l'autonomia in Veneto non ce l'abbiamo, chi è per quello che è cazzo, guardi adesso che i soldi dell'autonomia noi ciao li teniamo Dennis, perché ciao, prendiamo ciao, delle competenze ciao, perché siete più furbi degli ciao, altri ciao. We are liars, we are thieves. Allora, qualche giorno fa qui alla Zanzara, Giovanni Ciacci, noto omosessuale, costumista, eccetera, eccetera, grande combattente, ha detto queste parole su chi pronuncia la parola frocio, su chi pronuncia la parola finocchio, eccetera, eccetera. Anche se tu dici frocio, secondo lui dovresti subire delle conseguenze, multe, ha ragione, certo, galera, certo. Eccetera. Ma non dite stronzate, siete dei pazzi, certo, scatenati. Senti, certo, senti che ha detto Ciacci sia di Feltri, di Adinolfi, eccetera. Lei. Dunque Feltri dovrebbe andare in galera, come le ali, sì, no? Sì, Feltri dovrebbe andare in galera come le ali, certo. Multato, che deve andare in galera. E Adinolfi, no, Adinolfi che dovrebbe fare? Adinolfi deve andare a fanculo proprio, direttamente a fanculo deve andare Adinolfi. Anche c'ha Adinolfi, fa le sue idee. Allora, Mario Adinolfi con noi, però Mario, volevo prima di andare su Ciacci, che però è un esempio tipico del fatto che questi vogliono preparare una legge, questi signori sono a favore di una legge che in realtà punisce la libertà di espressione, mi sembra abbastanza chiaro. Non è chiaro. La libertà di espressione, mi sembra contro abbastanza gli insulti, chiaro, mi sembra contro abbastanza gli insulti. Chiaro. No, e contro gli insulti c'è già una legge, insulti, c'è già hai una sentito che ha detto. Sì. Contro gli insulti, ma hai sentito? Ha insultato, detto? Ha insultato. Ma sembri scemo. Ma hai sentito che ha detto? Contro gli insulti, certo. Ma come lui stesso ha detto vaffanculo, dai, su. Vaffanculo è una cosa, vaffanculo è generico. No, no, non fammi ha detto vaffanculo. Quando sono stato in trasmissione con Giuseppe a dare il debito la settimana scorsa, c'era una che strillava contro mia figlia, che doveva essermi tolta, che io dovevo andare in galera. Sì, che c'è sbagliato. Non è che è sbagliato, è il clima d'odio, è contro di noi. Se il problema è solo gli insulti che tu sottolinei, gli insulti li subiamo. No, ma è così. Io posso dire, se tu dici a uno frocio, Ciacci, lo insulti, come si fa a non capirlo? Adinolfi non l'ho mai usata. Io la uso. Adinolfi no, e per esempio. Io te... vengo insultato in quella maniera nella tua trasmissione senza che tu fai un fiato. Perché ha un'idea diversa da Ciacci, ma ti rendi non conto è un'idea. Del problema? Non riconoscere il diritto all'omosessualità allora e insultare una persona perché è omosessuale, è incredibile. Sei davanti all'evidenza del problema, eppure la neghi l'evidenza del problema. Allora Ciacci ha detto qui... Ma ha un'opinione diversa da Ciacci. Allora Ciacci dice esplicitamente che chi pronuncia la parola frocio bisogna cambiare tutto, la parola checca, eccetera. Certo. Chi ma dice... lui sa che io certo. non la pronuncio. No, ma dice anche un'altra cosa. Dice, anche Feltri quando fa le sue cose, fatto Feltri è iscritto all'Arcigay, ha detto che deve andare in galera, un iscritto all'Arcigay. Feltri alla tessera dell'Arcigay. Ma sì, ma è scritto per finta, dai, che c'entra quella finta, provocazione di 20 anni, di 10 anni fa, dai. Dice che Feltri deve andare in galera, ma vi rendete conto? E voi siete colleghi di Vittorio e non fate un fiato, ma davvero? Allora, però voglio dire a Di Noffi un'altra cosa. Davvero, Davide, questo per te non è un problema quando ti dice. Ma figurati se Feltri va in galera. Ma con tutte le fregnacce che ha scritto. Ma no, ma io non voglio che vada in galera Feltri. Ma figurati, ma con tutte le fregnacce che ha scritto, con la parola negri e quant'altro. Ma perché quello tuo ospite può dire che un tuo collega deve andare in galera per le sue idee? In galera. E tu non deve essere multato, deve essere multato sicuramente. In galera è sbagliato. No. Senti il testuale. Ma ne ha detto senti di più, ma ne ha dette di più, adesso dopo le taglieremo. Ha detto anche che non solo devono andare in galera, ma devono puniti severamente quelli che sono contro il matrimonio omosessuale. Cioè, è giusta questa cosa? Dai, è una follia, dai. Dai, se arriva alla fine. No, ma alla fine si arriverà a questo. Alla fine ma certo che si arriverà. L'unica finalità. Ma non si arriva a questo. In alcun modo. Ma è l'unica finalità, non c'è altra ragione per fare questa legge. Perché se uno dice, dovete capire che non si insultano le coppie che fanno scelte diverse dalle vostre e dalle mie, ovviamente. Non ha niente a che fare con gli insulti che sono già puniti. Che sono già puniti. Di mettere in condizione chi ha l'opinione esattamente come è stato detto, contraria per esempio al matrimonio omosessuale, di essere trattata come fosse un razzista o un antisemita, e questo è intollerabile. Scusate, perché tu parli di cosca, di cosca LGBT quando parli perché del caso Garco? È un potere tremendo. Se riesce a imporre quella legge, vuol dire che è un potere. E se riesce a imporre, per esempio, sul caso Garco, tutti a dire di non si vuole parlare delle scelte sessuali di Garco, ma sai a me che me ne frega? A me interessa capire perché, se emerge una storia tremenda, peraltro al Grande Fratello gli si accende per cavoli loro, storia di un produttore che ha un fidanzato che si suicida e durante la trasmissione dicono che c'è l'istigazione al suicidio. se c'è una storia di questo produttore che gestiva questa roba qua, io voglio capire perché a un certo punto arriva la diffida a parlarne e nessuno ne parla più. Vabbè, quelli sono cazzi loro, non è che Però scusami, Mario, io per secondo te Garco, secondo te il coming out di Garco lo fa per i soldi, per troppo evidente. Ecco. Garco lo fa per i soldi, Garco lo fa per i soldi. Ma che ne sai? Qualcuno potrebbe dire a te che tu fai il cattolico per vendere i libri e chi lo dice? Se uno dicesse una cosa simile sarebbe un cretino. Trovatemi un cazzo. No, ma scusami, qualcuno potrebbe dirti che tu ti sei convertito per fare i soldi, per vendere i libri, il partito della famiglia. Qualora uno ti dicesse una cosa simile, sarebbe un cretino. Porta rispetto a Garco. Scusa, non capisco perché tu devi attribuire a Garco. Anch'io lo dico, per me è legittimo. Secondo me, se una persona si è fatta per 30 anni autodenunciandosi il segreto di Pulcinella perché serviva dentro quella casa produttrice, ma che senso in quella maniera lavorare, ma uno potrebbe dire a te la stessa cosa, capire perché dopo quando e uno a te potrebbe un dire diverso, come ma- e no, uno ma potrebbe dire stato, come mai ad Inolfi a un certo un punto cattolico, si non è mi sono convertito? Mai convertito non mi sono mai convertito con la Inolfi cascano male. Garco non si è mai convertito. Allora scusami un attimo, tu stai dicendo che a Garco in questo momento conviene dire che è gay perché è più facile ottenere lavoro? Conviene affiliarsi nel mondo della cultura e dello spettacolo. No, affiliarsi, non dire affiliarsi alla cosca LGBT. No. Lo dico con grande chiarezza. Però la cosca ha un capo, nella cosca c'è un capo, ci sono i capi, chi comanda in questa cosca? È tutta evidenza, ragazzi, ma cosa guardiamo noi? Guardiamo la è orribile. Io l'ho detto con usare la parola cosca. Aspetta, fammi orribile. Sentire chi è a capo di questa cosca, però. Vabbè, secondo me perché è un'organizzazione di potere ramificata, assolutamente ramificata, che da Mediaset, da Canale 5 a Rai 1 detiene dei posti evidentissimi di potere enorme. È orribile, cioè, a Mediaset chi comanda in questa cosca? Signorini, chi comanda in questa cosca? A tutti, ragazzi. Ma Barbara D'Urso ha delle posizioni quando fa le sue trasmissioni. Ma chi c'entra D'Urso? È una c'entra perché. Ma la società è così, la società è aperta ed è così. Che dici? Raccontata in maniera diversa da com'è. Questo è quello che io contesto. Per fortuna l'Italia è una società aperta e libera, anche se sta lui sta dicendo un'altra cosa, che c'è un potere ramificato. Lui sta dicendo che c'è un potere ramificato. È una minchiata. E non è omofobica. Viene invece raccontata un'Italia omofobica che non esiste, l'ho appena detto, che non c'è, che nella società non c'è, per far prevalere il vittimismo che poi garantisce vossi. No, ma scusa, è il contrario. Sei tu che sei omofobico. Sei tu che vedi gay nei posti di potere ovunque. È esattamente il contrario. Sei tu che vedi il grande complotto dei gay che sono ovunque. Questa è la cazzata. Io racconto l'evidenza di quello che lui dice che c'è un'organizzazione di potere. Lui dice che c'è un'organizzazione di potere ramificata gay in televisione. Usate la logica. Fammi sentire. Parte da Palazzo Chigi. Che da Palazzo Chigi ha orientato l'informazione, ha orientato in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo. Beh, tu dici anche Mediaset. E poi ovviamente contagiando anche Mediaset, per cui oggi non puoi fare una trasmissione più rendendo conto delle tue diverse posizioni su tantissimi temi. Cioè, gli eterosessuali sono discriminati, stai dicendo, non credo. Ma assolutamente sì, rispetto alla narrazione, per esempio, sulla legge Zan, che viene poi ovviamente proposta non sulla legge in sé, perché hanno capito perfettamente che il dibattito non è sulla legge. Il dibattito è raccontare un'Italia omofobica che avrebbe bisogno della legge Zan. Questo è vero. Allora tu devi raccontare l'Italia omofobica che non c'è e scarrelli Canale dall'Italia in diretta, come si chiama, Vita in diretta a Pomeriggio 5, e ti viene raccontata sempre quest'Italia omofobica che non c'è, che non esiste, ma te la raccontano ogni minuto, così ti legittimano la cosiddetta legge per proteggere dall'odio, quando la verità è l'opposta, quando si va cioè tu dici che sono quelli che sono insultati, ma la trasmissione sono le trasmissioni aperte, mi registrate un insulto che io alla Zanzara ho fatto nei confronti di costoro, me lo mandate in onda. Ciao Mario, a presto. Chiedo scusa un momento, pubblicità. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€ nei negozi e online. Vi presenta La Zanzara. E per quanto riguarda il tizio del Kodakons, se un bambino non può essere messo in una pubblicità perché non è capace di intendere di volere, allora non potrebbe neanche essere battezzato. Quando Radio Maria entra nelle frequenze di Radio 24, è in questo momento che spero sempre che tutto il Vaticano crolli. Comunque Crucio, anche noi 22 anni abbiamo un amico in compagnia che è vergine e abbiamo provato in tutti i modi a farlo diventare un adulto e abbiamo pagato anche la mignotta ad Amsterdam, però niente, è venuto dopo una sega e quindi niente, però è possibilissimo, purtroppo, sono d'accordo. Allora, intanto Marco dalla provincia di Imperia, vai. Marco dalla provincia di Imperia, dimmi Marco. Ciao Beppe. Dimmi. Ciao Beppe, dimmi. Ciao David. Vai buonasera. Marco, vai. Buonasera amico. Niente, caro, buonasera. Ti chiamavo qua da Ventimiglia, ma naturalmente Freccero, televisione. Cosa? Verità. Ma cosa? L'hai visto? Verità. Dai. L'hai visto il video? Quale video? Quello lì del sindaco che viene intervistato. Sì. No, video non l'abbiamo potuto mandare perché è la radio, però abbiamo sentito l'audio. Sì. Certo, ti chiedo a te, non l'hai visto ancora? No, non l'ho visto, l'ho visto. Perché l'ho visto. È successo oggi. Sì, lo so, e allora che cazzo vuoi? Ma che cazzo? No, io ti chiamavo, prima di tutto ti ho chiamato perché io sono frontaliere. Allora? E lavoro a Mentone, abito qua a Ventimiglia e lavoro a Mentone. Dunque? E ti posso portare parecchie testimonianze dalla Francia, delle mascherine, delle non me ne frega un cazzo, Michele da Bergamo, non me ne frega un cazzo, Michele da Bergamo, questo vuole fare lo splendido, dai. Michele, dimmi. Ciao. Dimmi. Ciao, buonasera. Io volevo semplicemente fare una piccola osservazione al signor Parento. Tendenzialmente, qua, buonasera. Spesso mi capita di essere in disaccordo con quello che magari dice Gottardo. È una persona coerente. Mi ha fatto molto ridere che prima Parento facesse il paladino della giustizia, il paladino dei non insulti e a favore degli omosessuali, e poi nel momento in cui si è ritrovato a scambiarsi insulti con il camionista che ha chiamato mezz'oretta fa, primo insulto che gli è venuto in mente, mi sono difeso. Che tu lo la prima cosa che però lei, ma non lo dicevo come insulto, dicevo chiaramente. Ma non lo dicevo come insulto. Michele, non hai capito niente. Siccome quello là attaccava i gay e utilizzava degli insulti nei confronti dei gay, Parenzo diceva: mi sa che il primo a prendono il culo, che per lui è una cosa negativa, che per lui, che per il gay è una cosa negativa, mi sa che il primo a prendono il culo è lui, non come insulto. Che gliene frega a Parenzo se uno piglia il culo o non piglia il culo? Il problema è di questo. Se uno è felice, è felice. Michele, tu sicuramente sei omosessuale. Sessuale, giusto? Tu sei omosessuale, giusto? Ci fate due coglioni così con queste cose qua. La prima cosa che ha detto e prendono il culo non era un insulto. Ciao. Allora ragazzi, io voglio assolutamente risentire il mitologico unto del signore Eliseo Bonanno che abbiamo sentito la settimana scorsa. Carità. Fammi provare a richiamare Bonanno un attimo, perché io sono impaurito. Siccome ha detto che è vicina l'ira di Dio, il ritorno di Cristo Signore sulla terra per punirci da tutti i peccati, io sono un peccatore, sono uno... Brucerai all'inferno. Sì, sono un peccatore seriale, diciamo, seriale. Chiamiamo. Sono terrorizzato sul serio, voglio capire che mi succede. Pronto? Sì. Cercavo Eliseo. Ma chi sei? Cruciani? Sì. Aspetta. C'è la Zanzara. La Zanzara. Dove è DDT? Scusatemi. Che grande. Che grande Eliseo, sei un grande. Sei un grande. Sei un cretino. Allora, volevo chiederti una cosa. Devo essere spaventato da peccatore all'idea che arrivi l'ira di Dio oppure no? Perché questo te lo devi chiedere tu. No, ma me lo sto chiedendo a te che ci parli ogni tanto. No, te la devi vedere con no, Dio. No, ma siccome tu ci parli, voglio capire se devo essere spaventato o no. Hai detto che ci parli, scusami. Scusa. Quelli che saranno spaventati sì. saranno quelli che pensano di beffare Dio, sì. di beffare i figli di Dio, se la vedranno con Dio. Ma come se si mangia? Se tu sei un beffardo sì. insieme all'altra zanzaretta, sì. e sono affari vostri. Ma io voglio sapere cosa rischio, siccome tu hai detto che l'ira di Dio è vicina e che l'arrivo di Dio sulla terra mamma è vicino, mia. Cosa rischia uno che è un peccatore come me, cazzo? L'ira di Dio, tu e gli altri stronzi come te, hai capito? Devi essere zanzara. Cosa rischio? Oh, Eliseo, Dio cosa rischio? Dio. Cosa rischio? Dio delle mosche. Hai cosa capito? Rischio? Non, hai, non mi sai rispondere cosa rischio? Io sono un peccatore incallito, dimmelo. Cervello delle zanzare che si portano sulla cacca è pieno di cacca. Ma che vuoi? No. Cosa ma rischio? Cosa rischio? Non lo sai dire. Cosa rischia un peccatore come me? Tu che sei l'interprete. Non ho nulla da dirti. Ma sei il lunto del Signore, cazzo. Uno ti chiede bravo, cosa rischia tu. Da peccatore. Posso dire una cosa? Uno che è l'unto del Signore, che porta la parola di Cristo in terra e che è autorizzato a dire stronzo e due volte vaffanculo, un po' mi solleva, cioè mi assolve da tutto quello che succede in questa trasmissione. Questo qua è unto del Signore. Tieni solo presente che è uno spostato. Aspetta. Ecco, volevo dirtelo. Però scusa, uno stronzo, due vaffanculo e in pochi secondi un unto del Signore, uno che dice di voler portare la parola di Dio in terra. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Mica risponde Eliseo, rifai un altro numero, rifai. Fall da Bergamo intanto, fall. Ragazzi, due vaffanculo e uno stronzo da un unto del Pronto? Signore. Chi è? Pronto, sono Fall. Dimmi Fall. Sì, non ho auricolare, non questo ho si chiama voce, Fall, no? Come fallo, sì, come fallo, fall, fall, sì, fall. Bravo. Dimmi. Bravo che ti piace Fallo, te mi sa. No, a me non piace Fallo, amico mio, no, però va bene, sempre, per carità. No, sempre, perché ne parla sempre? Ma parlo sempre? Ascolta, sì, non ho auricolare, non ho viva voce. Aspetta, no. aspetta, sta zitto un attimo. Dimmi Fala, questo non risponde. Scusa, sì. L'unto non risponde. Dimmi. Volevo dirti una cosa, solo un ignorante come te è capace di dire certe cose. Solo un ignorante, cosa? Un barbaro come te è capace di dire certe cose. Sì. È perché c'è una frase è scritta su tutte le aule del tribunale in Italia. Sì, qual è? La legge è uguale per tutti. Ma io non ho detto che non sono stati commessi reati a Perugia, coglione. Io ho detto che fosse per me. Hai detto che devono autorizzare quel calciatore a avere la cittadinanza. Ma la cosa sicura, tu sei cittadino italiano, Fall? Sì, è un percorso tutto. Io sono sicuro che Suarez parla meglio di te. Suarez parla meglio di te, questo è sicuro. Tu non parli col cazzo che parli italiano. Col cazzo. Sei un imbecille barbaro d'origine. Fermola che torno con te. Fermola, non ti muovere. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Ascolta, tu vivi un po' troppo tra escort advisor, qualche canna mozza che paga per scopare al Maxim e qualche borgataro d'accatto, perché è perfettamente normale che ci sia gente che non tromba da 10-12 anni. Bah. Cioè, è una cosa comunissima. Mm. Ma dove cazzo vivi tu? Oh, rifigliati, Giuseppe. Ciao, Crux. Dimmi. Sono in Bulgaria, a Plovdiv, a studiare medicina. Ho già due lauree in biologia. Plovdiv, stupenda Plovdiv. E stasera, mentre trovavo una, gli ho dovuto dire: guarda, scusami, ma devo andare in bagno. Mi scappava la pipì forte e l'ho pisciato nel lavandino. Giusto. che qui non c'è il bidet, un cazzo e un altro. Ovviamente non gli ho detto nulla e poi ho continuato a scoparla. Amico mio, ciao Cruciani, buonanotte. Vabbè, Cruciani, stavo ascoltando il podcast la mattina, bello il podcast la mattina che ti dà la carica. È vero. E sentendoti parlare solo di cuckold mi hai dato un'illuminazione. Cuckold mi farebbe godere come un riccio, godere come un matto. Sì. Vedere quegli estremisti cattolici tipo Ruggero che vengono inculati a sangue. Siamo al top. Allora ragazzi, alcune notizie molto veloci. Oggi l'amministratore delegato del centro medico Sant'Agostino ha detto, che è un centro medico abbastanza conosciuto qua a Milano, notizia riportata sul Corriere della Sera, ha detto i contagiati in Italia sono almeno 11 milioni. 11 milioni. Bene. Questo cosa quando vuol dire? Saranno che tu... 60? No, ma con tutti i dati che voi leggete, no? Il dramma dei dati, ci sono, secondo questo tizio, che è uno che conosce la materia, 11 milioni di contagiati. Dunque non rompete i coglioni con queste strozzate. Ottimo, stupendo. Più non c'entra niente. Meno, ma certo, meno è rischioso. La mortalità è bassissima se 11, ci sono 11 milioni di contagiati. Ma lo vuoi capire o no? Questo, ma porca quello puttana. Che sta avvenendo all'estero, come te lo spieghi? Ma lascia perché perdere, parla di quello che succede perché qua. Perché in Europa, in Francia Fermo. Hanno paura, in Elon Spagna Musk, vogliono richiudere. Elon Musk, proprietario della Tesla, eccetera, uno degli uomini più ricchi del mondo, dice di non voler prendere il vaccino né per se stesso, né per i figli, né per la famiglia, perché il Covid non è un rischio. Lo dice Elon Musk, che è un se mezzo matto. Bene, se stai bene, ci beh, siamo se dimenticati, stai bene, ci siamo dimenticati di fare gli auguri a uno dei più grandi scopatori d'Italia, oggi 29 settembre, Silvio Berlusconi. Applausi a Berlusconi innanzitutto, applausi a Silvio Berlusconi. A Bersani. Uno, ma non solo. Io voglio anche fare, Bersani, voglio fare anche gli auguri figlio, di compleanno. Anche tuo figlio, figlio, sì, però non è ancora uno dei Bersani. Più grandi scopatori. Invece voglio fare un augurio, non so quanti anni fa, 84, 85, con lei, uno dei più grandi trombatori italiani. Ricordiamolo con una piccola clip. E ha fottuto anche il Covid. Sì, beh, ancora no, però ci siamo quasi. Sulle donne parlo solo io perché tu non capisci niente. Beh, questo... Che applaudite voi, ma cosa ne sapete? Ma che ne sanno? Ma che ne sanno? Se una donna deve scegliere, sì. 81 anni, 13. No, 41 veramente, comunque grazie. Ma il cervello come 13. Va bene, mi lasci i miei appunti per cortesia. Quindi, i miei appunti, scusi, chi non sceglie, tu, onorevole. Chi scegliete, signore, tra di voi? Vabbè, sondaggio Chiamo facile. Chi sceglie lui? Sondaggio facile, eh? Nessuna. Chi sceglie me? Anche qualche uomo, eh? Anche qualche uomo, caro presidente. Vabbè, possiamo chiudere. Siparietto con Parenzo, Siparietto con Parenzo. Non me lo ricordavo più. Beh, quanti anni fa era questo? Qualche anno fa, Santa Margherita. Allora, grande amante della figa, ragazzi. Applausi. Oggi 84, uno dei più grandi amanti della figa mai nati in Italia, mai esistenti, forse il più grande amante, possiamo dire il più grande amante della figa, sicuramente sì. Allora, eravamo con Falle da Bergamo, dai, Falle da Bergamo. Fallo da Bergamo, dimmi Fallo, dimmi allora che vuoi dire? Dimmi. No, voglio dire che la tua ignoranza non ha limiti. Questo non parla italiano, ha preso la cittadinanza. Sì. Per me fa benissimo prendere la cittadinanza. Cosa vuol dire? Ma infatti va benissimo per me, ma va benissimo, però non rompere il cazzo a Suarez. La tua ignoranza non ha limiti. Sì, Fallo, Fallo. Perché ci sono le regole in tutte le cose. Come mai tu... hai i soldi, hai il privilegio di saltare sì, le regole. Sì, ma perché mi hai fermato adesso quarto che era... Non ho capito, Fallo, cerca di parlare bene. Ma non fa neanche fallo all'attacco. Cinzia da Cosenza, vai. Cinzia da Cosenza. Pronto, buonasera. Dimmi Cinzia, dimmi. Allora, io vorrei ritornare, mi dispiace aver interrotto questa situazione. Dimmi Cinzia, vorrei dimmi. Vorrei ritornare veloce, al fatto dei cacciatori. Allora? Allora, io in pratica ho una proprietà in uso comune, tutta recintata. Sì. Mi sono ritrovata sabato sera, pomeriggio, con schioppettate vicino all'orecchio. Vicino all'orecchio, non credo vicino all'orecchio, amico mio. Vicino all'orecchio. Sono degli incivili. Hai sentito del rumore? Ma questi hanno commesso. No, io ancora sento i fischi. nell'orecchio ancora senti fischi. Ho capito, amica mia, vendi la casa, che te devo dire? Vendi la casa. Non è mia, non è mia proprietà. Io ho i cani. Ma non ho capito, dove hanno sparato, in posti dove si poteva sparare questi qua? No. E allora denunciali, ma che vuoi che ti dica? Denunciali. Signora, in Calabria c'è anche una cosa che si chiama criminalità. È probabile che nelle zone in cui, di cui lei parla, ecco appunto, ci sia una cosa che si chiama andrangheta che spara, l'andrangheta, non i cacciatori. Guardi, non parliamo di andrangheta perché non Il problema della Calabria non è il traffico, esatto, in questo caso i cacciatori, saranno altri con la lupara, altri con i fucili, cazzo, non i cacciatori. Se lei sente male all'orecchio, noi siamo dispiaciuti, per carità, se qualcuno ha commesso delle infrazioni, che paghi, che cosa vuole che le dica io? Ho capito, però lei mi sta dicendo di caccia. Io le sto rispondendo per quanto riguarda la caccia. Ho capito, ma con tutti i forestali, ma con tutti i forestali che ci sono in Calabria, non ce n'è uno che controlla i cacciatori. Sono intervenuti. Allora? Allora, automaticamente non sono riuscita a capire chi era. Vabbè, Cinzia, che dobbiamo fare noi? Facessero le loro indagini, che problema l'orecchio ha? Che problema l'orecchio ha? Ha ancora il fischio. Fischio, che sarà mai un fischio all'orecchio? Insomma, è fastidioso la cuffia. Oddio, chiedo scusa, da sabato mi è arrivato quasi un pallettone vicino. Ma un pallettone vicino? Quello là è un criminale, se qualcuno ha tirato un pallettone dalle sue parti. Scusi, Cinzia, ci stiamo parlando. Questo mi fa andare nella direzione di Parenzo. Ha ragione Parenzo. Allora, mi sa che questi qua non sono troppo cacciatori. Dai, ciao, Cinzia. Ciao. Vabbè, buona serata. Arrivederci. Ciao, ciao. Cacciatori. Ragazzi, uno dalla Calabria in collina, e prima sono i cacciatori. Dai, su, dai, forza. Collegamento con Colorado Springs, la moglie del soldato. Ti ricordi un grande film, Parenzo? La moglie del soldato, bellissimo. Michela Morellato, from Vicenza, adesso residente negli Stati Uniti, protagonista di grandi scandali italiani e non solo. Michela, buonasera. Ciao, buongiorno a tutti. Buonasera, che qua è buongiorno. Come stai? Sei sempre molto calda, amica mia, sempre molto calda? Sì, ma ascoltavo la signora, il fischio all'orecchio si chiama acufene. Sì, acufene, lo sappiamo. Acufene, tesoro, lo sappiamo. Allora, volevo fare un po' la dottoressa, dai. Beh, la dottoressa ci sta, però vestita dottoressa, da dottoressa, esatto. Ti è rimessa vestita da dottoressa anche col generale americano, come abbiamo detto, no? Anche col signor generale, ti voleva vestita da dottoressa, non ti è rimessa, lui sognava da infermiera. Lui ti voleva vestita da infermiera. Senti, l'altro giorno, innanzitutto come va il rapporto con tuo marito? Ci sono novità? Ci sono aggiornamenti con Adam? Con Adam o no? Sono sempre le solite rapporti matrimoniali con alti e bassi. Sì, il tuo la realtà è questa. Quante è la frequenza dei rapporti sessuali? La frequenza dei rapporti sessuali a settimana, com'è lì? È un rapporto frequente oppure un rapporto saltuario, un rapporto sessuale con tuo marito? Allora, il 4 di ottobre faremo 7 anni di matrimonio insieme. Sì. E ho notato, perché io ho un bel calendario sul mio telefonino dove puoi scrivere, insomma, periodo e in più le attività sessuali. Sì, ho scoperto che questo mese ho avuto solo una volta alla settimana il piacere di essere moglie, giusto? No, il piacere di essere trombata, non il piacere di essere molte. Una volta. No, parliamo come parliamo sempre, non fare la puritana adesso. Una volta a settimana, cioè stai dicendo che a settembre. Non me l'ha dato. Una volta a settimana. Allora gli ho detto: scusa, magari sono io che ho un problema, magari sono io che devo andare a parlare con un dottore, farmi controllare. Perché poi sono andata a guardare su Google e su Google americano c'è scritto che in America è normale una volta a settimana, mentre sul Google, nel motore di ricerca italiano, gli italiani dicono 3-4 volte alla settimana per essere felici in una relazione. Sì. Quindi io, essendo italiana, devo scopare 3-4 volte alla settimana. E quindi è un grosso problema. Cioè, tu quindi mi stai dicendo che a settembre, forse anche ad agosto, non lo so, non so da quanti mesi, il tuo... A settembre tu l'hai fatto solamente una volta a settimana. L'hai fatto presente ad Adam, sempre il militare, soldato americano, e qui siamo tutti quanti, no? Davanti alla bandiera a stelle e strisce. E tu stai dicendo, e tuo marito come ti ha risposto? Giustamente lui dice che poverino si sveglia alle 5 della mattina, torna a casa alle 5 ed è un po' stanco. In più io invece sono molto non sono stanca per niente, perché tra l'altro non sto nemmeno lavorando, appunto, non fai un cazzo, sì, non c'è dubbio. E quindi quindi nulla, e quindi siamo un po' la realtà, io le voglio solo chiedere una cosa. La realtà cosa, è che tu sei molto famelica, lei... tu sei molto famelica. Vabbè, da questo punto di vista. Suo, questo no, è un problema. No, giustamente, è una persona che lo vuole fare almeno 3-4 volte alla settimana, lo vuole prendere almeno 3-4 volte alla settimana. Perché, signor, va bene, lo prenda, faccia quel che vuole. La cosa che le chiedo è, signora, perché lei deve condividere con 2 milioni di ascoltatori italiani e non, visto che va pure in podcast e può essere ascoltato ovunque questa trasmissione, deve condividere mondo, con sì, noi, esatto, i suoi problemi sessuali con il signor Adam. Io questo no, e questa ma è una cosa perché, che io ma perché è giusto, Parenzo, è giusto, è giusto, è giusto perché noi diamo speranza alla gente, perché tanti hanno questi problemi e non sanno come fare per risolverli, quindi siamo qui, stiamo parlando tra amici. Scusami, no? giusto, ma io non ho capito, tuo marito, sì, ho capito, tuo... ma se io fossi il suo marito mi sentirei un po', come dire, offeso e dileggiato dal fatto che lei, cara procaccia e simpatica signora, parli degli affari, perché? Diciamo nostri Adam, intimi. Ma magari la prende nella maniera giusta, lei dice sostanzialmente che vorrebbe essere scopata di più e poi magari arriverà il momento in cui lui se la scoperà di più, bene, scusami dai, bene, ha pure un cazzo bene, notevole, ha detto più di 20 centimetri. Oh mamma mia, ma però scusami, uccello molto grosso. È così. Ma come si fa, scusami, a parlare nei di giorni questo? Scorsi, Michela, la Valentina Nappi, sì, ha detto una cosa tremenda. Ha detto praticamente: se le donne adesso le dia più facilmente, se ci fosse la prostituzione, eccetera, eccetera, non ci sarebbero le violenze sessuali, scomparirebbero. Cioè, se le donne fossero più facili, sì, molte violenze sessuali non ci sarebbero. Tu che ne pensi? Tu che hai avuto qualche piccola esperienza, piccola, grave, barra grave esperienza di molestie sessuali, di violenza sessuale nel passato contro personaggi anche abbastanza noti. Sì, beh, la dottoressa Nappi, che l'ascolto, la seguo delle volte quando anche viene in radio da voi, secondo me è un pochino confusa, perché il problema è che c'è talmente tanta inflazione di figa che gli uomini si inducono quasi questo diritto di averla per forza, che può portare anche alla violenza. È vero, è al contrario di quello che dice lei, cioè c'è talmente tanta offerta che in realtà ma l'uomo via per una ricarica di telefono, cioè, dunque l'uomo è portato a pensare che dice cazzo, me la posso prendere direttamente anche con la violenza. Ma anche perché, come, cioè, anch'io sono una che mi piace fare, citare, provocare, ma a un certo punto bisogna anche saperlo fare nella vita, no? Senti, ma tu come hai reagito di fronte a quello che ti è successo, per esempio? Beh, quando mi è successo a me, comunque non avevo 34 anni, ne avevo 18, e quindi sei in un periodo della vita un po', sai, sei una lolita, ti vuoi divertire, vuoi arrivare... Ecco, ma come hai reagito tu nel rapporto con gli uomini? Io mi sono... vabbè, comunque lui quella volta mi ha messo due dita nella patata, posso dire? Urca. Sì. Mi ha messo... E mi ha preso per i capelli e mi ha tirato i capelli verso, mentre si tirava fuori il membro, l'uccellone. Sì. E da lì cosa è successo? A parte che poi è successo tutto un discorso. Vabbè, un po' lasciamo perdere. Sì. Vabbè. Però mi ha cambiato la vita. Cioè? Delle volte penso che grazie anche a quella volta, o per colpa di quella volta, penso che mi ha cambiato anche a livello sessuale. Mi piace dominare, non mi piace essere dominato, non mi piace. Cioè, ti piace a partire da quelle esperienze, ti piace più dominare nel rapporto sessuale, cioè non ti piace essere dominata. Senti, un'ultima cosa ti voglio chiedere, perché penso che quella volta lui ha un po' creato un mostro. Creato un mostro, Michela Morellato. Senti, un'ultima cosa. Mi hai raccontato nelle nostre conversazioni notturne che una tua amica ti ha confessato una cosa curiosa su cui vuoi aprire nei prossimi giorni un grande dibattito. Cioè, lei non riesce a venire con il proprio uomo che la scopa, cioè scopa regolarmente col proprio compagno, non riesce mai a venire, giusto? Riesce a venire solamente masturbandosi. Voglio capire se secondo te è una cosa comune questa. Guarda, io ricordo quella sera che è successo, lei mi ha confidato questo segreto, ma non è stata la prima, ce ne sono state anche altre, e io le ho spiegato una tecnica, gli ho detto una tecnica, perché Dio ci ha dato il clitoride, che è la cosa più bella del mondo, quindi gli ho detto, se non riesci, prova a allenarti. Mi sono messa sul braccio del divano con le gambe aperte e ho iniziato a strusciarmi, farle vedere che e gliel'ho fatto fare, e lei si è messa sopra e l'ho aiutata sul bracciolo del divano? Sul bracciolo del divano. Sì, però poi sul bracciolo del divano di casa mia, sì, tutto questo è successo a casa mia. Ecco, ma lei però non viene mai? È lei una che non viene mai? No, lei viene masturbandosi, ma non viene quando...